Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi, grazie per essere in nostra compagnia. Andrei subito ai temi del giorno con Giorgio Mattei in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in redazione. Una vita senza glutine. Parliamo di celiachia tra presente e futuro. L'infertilità, quando il problema dipende da lui. Insonnia, nemica del sistema immunitario. Uno studio lo conferma. Celiachia, oggi parliamo di questa forma di intolleranza permanente al glutine di cui si è parlato molto sulla stampa nei giorni scorsi in seguito al convegno di Genova, perché sono emerse delle notizie interessanti che accendono le speranze in chi ha già ricevuto una diagnosi di celiachia. Si è parlato di una pillola, si è parlato anche di un vaccino. Queste sono le due novità con cui inizierei la nostra puntata e vi presento subito il primo ospite di oggi, il professor Corazza, ordinario di medicina interna presso la Fondazione Policlinico San Matteo, Università di Pavia. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei, dottoressa, e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Professore, iniziamo subito con queste due novità che hanno molto colpito l'attenzione dei celiaci e non solo. La pillola e il vaccino. Sì. Andiamo prima con la pillola, professore. Andiamo prima con la pillola. Ci sono delle novità, ci sono delle prospettive, non c'è nulla definitivo però. Cos'è la pillola? O meglio, cosa sono le pillole? Perché nella celiachia si parla di più pillole. Noi sappiamo che quello che causa questa malattia è il glutine. Il glutine è una molecola abbastanza complessa e contiene un amminoacido che si chiama prolina, che conferisce a questa sostanza, al glutine, una certa indigeribilità, cioè il nostro organismo non è in grado di digerire questa sostanza e da questa mancata digestione scaturisce in parte o in tutto la sua tossicità. Per cui se noi abbiamo un enzima, cioè una proteina esterna al nostro organismo, magari di origine batterica, in grado di digerire il glutine, questa potrebbe essere una terapia. E questa proteina, questo enzima si chiama prolil endopeptidasi, la sigla è PEP, e potrebbe aiutare a tollerare meglio questa sostanza. Un'altra cosa di cui molto si parla è la cosiddetta zonulina, o meglio antizonulina. La zonulina è un'altra proteina, è una proteina che sigilla sostanzialmente gli enterociti, cioè le cellule dell'intestino attraverso le quali dovrebbe passare il glutine. Il glutine libera questa zonulina, la quale favorisce la sua entrata, e quindi con un antagonista di questa sostanza noi potremmo ristabilire una difesa dell'intestino, potremmo ristabilire una barriera continua che si oppone alla penetrazione del glutine. Devo dire che però questi sono interventi parziali, cioè entrambe sono pillole del giorno prima, cioè noi dovremmo assumerle prima di ingerire il glutine, ma non sappiamo ancora quanto tempo prima e non sappiamo quanto di queste pillole per quanto glutine vogliamo ingerire. Sta di fatto però che la sperimentazione è abbastanza avanti, è abbastanza avanti anche presso la FDA, che è quella agenzia americana che regola, dopo prove molto molto molto validanti, la immissione di questi nuovi farmaci sul mercato. Quindi insomma ci sono buone prospettive, buone notizie. E questa sarebbe una forma di digestione assistita, cioè come si fa per esempio quando manca la lattasi o come si fa quando mancano gli enzimi pancreatici. Professore, da anni si parla anche di un vaccino, se ne è parlato anche a Genova, un vaccino, mi corregga lei, è naturalmente capace di rendere innocuo il glutine, una specie di vaccino terapeutico, perché riprogrammerebbe il sistema immunitario un po' fuori fase dei celiaci. Sì, qui il programma è più ambizioso di quello della pillola, perché qui insomma si parla di una resettazione, di una riprogrammazione permanente del sistema immunitario di questi pazienti, cosicché una intolleranza diventerebbe una tolleranza. Siamo un po' più indietro negli studi, ma ci sono prospettive realistiche, perché se lei immagina una proteina che è costituita da tanti mattoni, cioè gli amminoacidi, se noi riusciamo a cambiare degli amminoacidi possiamo fare in modo che questa proteina da tossica diventi non tossica e che però sia in grado di stimolare una reazione immunitaria da parte del nostro organismo. È un po' poi quello che si è fatto per le vaccinazioni classiche, le vaccinazioni biologiche, quello di introdurre batteri attenuati che non provocavano tossicità ma che provocavano una reazione positiva. Qui si tratta di introdurre una proteina attenuata attraverso la sostituzione di alcuni amminoacidi chiave. Questo è il futuro, un futuro, quindi professore, possiamo dire se le cose procedono in questo modo, prima la pillola e poi il vaccino, o non si può dire così? Penso di sì, dottoressa, sì. Io tornerei però al presente, perché noi oggi vorremmo trattare essenzialmente due aspetti. La diagnosi, l'importanza della diagnosi, molto spesso arriva tardi o non arriva del tutto. Nei bambini è vero, ci sono dei sintomi più chiari che guidano il medico a sospettare questa intolleranza. Negli adulti il quadro è un po' più complesso, ma il professor Corazza ci aiuterà a vederci chiaro. Ma noi vogliamo anche occuparci di chi la diagnosi l'ha ricevuta e quindi deve seguire una dieta priva di glutine. C'è un'associazione che da tempo lavora, si batte per semplificare la vita dei celiaci, soprattutto fuori casa. I risultati che ha ottenuto sono tanti a disposizione, quindi se siete celiaci e avete bisogno di suggerimenti di vita quotidiana, in linea con noi, pronto ad aiutare chi si metterà in contatto col nostro numero verde, che intanto che ci sono ve lo ricordo, non si sa mai, 800 24 00 24. Abbiamo il dottor Adriano Pucci, buongiorno. Buongiorno. Presidente nazionale dell'Associazione Italiana Celiachia. Dottor Pucci, avete fatto tanta strada. Avete anche altra strada davanti, ma continuate a procedere. Sì, noi continuiamo a procedere perché molto è stato fatto, ma tanto ancora dobbiamo fare. Innanzitutto voglio anche dirlo per chi parteciperà poi telefonicamente a questa trasmissione, che l'associazione si occupa da sempre prima di tutto di ottenere dei diritti e mantenerli, soprattutto, che è una cosa forse più difficile. E poi abbiamo da sempre un impegno, prima di tutto per aiutare l'emersione delle diagnosi e poi per migliorare la qualità della vita dei celiaci, in particolare, appunto, come dicevo, per l'alimentazione entro, ma soprattutto oggi fuori casa. Ecco, una cosa che mi preme molto è anche migliorare l'informazione anche dalle istituzioni della classe medica. Approfitto anche per, intanto saluto il professor Corazza. Buongiorno a lei. Che è la persona, una delle persone più preziose che l'associazione ha potuto avere al fianco da sempre, e oggi è il presidente del Comitato Scientifico per la Ricerca dell'Associazione Italiana Celiachia, oggi Fondazione Celiachia. E lo dico con vanto, il professor Corazza, come poi anche chi parteciperà dopo, sono veramente ricercatori famosi in tutto il mondo e sono veramente di primaria eccellenza, e quindi è proprio un onore per me dirlo ancora oggi. Ecco, anzi, a proposito di questo, volevo chiedere al professor Corazza una cosa che mi è arrivata proprio stamattina. Sì. Un test di ingresso alla facoltà di medicina, anno accademico 2008-2009, dice la celiachia, eccetera, eccetera. La domanda è: coloro che sono affetti da celiachia devono limitare al massimo l'assunzione di, e poi dice pane e pasta, carne bovina, legumi, latticini, eccetera. Ecco, io mi chiedo come si fa da un ministero dell'istruzione ancora oggi dire deve limitare al massimo, quando sappiamo tutti, no, che deve essere una rigorosa assenza di glutine. Forse era una trappola per gli studenti, professor Corazza? No, vede, perché la trappola può essere pane e pasta, carne bovina, legumi, latticini, verdure, ma la domanda non era di la domanda era di scegliere uno di questi alimenti, il problema era limitare al massimo, che secondo me è una cosa veramente fuorviante e sbagliatissima. Professor Corazza. Senti, il mio commento è abbastanza scontato, come può immaginare. Questo però significa che dobbiamo fare ancora molto, ancora è stato fatto molto, ma bisogna fare ancora molto per la promozione della conoscenza di questa malattia anche in ambienti, tra virgolette, ufficiali, cioè limitare al massimo in una malattia di questo tipo, in cui l'azione del glutine di tipo immunologico vuol dire poco, è come il presidente sottintende, la parola giusta è bisogna escludere, non limitare al massimo. Allora, devo dire che la CIS è molto battuta per questo, giustamente. Allora, professore, vogliamo anche in questo nostro spazio provare a fare un pochino di informazione? Innanzitutto io proverei a dare una definizione per i non addetti ai lavori della celiachia. Allora, la celiachia è un'intolleranza alimentare. Sì. Permanente, che è causata dal glutine in individui che sono geneticamente predisposti a questa intolleranza, che guarisce con la esclusione completa del glutine dalla dieta e che, a differenza di altre intolleranze alimentari che causano solo sintomi, può causare, anzi causa, delle lesioni intestinali importanti che sono caratterizzate eminentemente da una infiltrazione infiammatoria di tutto l'intestino e da un appiattimento più o meno marcato dei villi intestinali, che sono quelle strutture che servono ad assorbire i nutrienti. Mancanza di villi, i nutrienti non vengono adeguatamente assorbiti e da questo scaturisce perlomeno una parte del quadro clinico dei nostri pazienti. Quindi un'intolleranza permanente, geneticamente determinata, da parte di una sostanza che si conosce bene. Professore, i figli di celiaci che possibilità hanno di diventare intolleranti permanenti al glutine? Le ho già premesso che questa è un'intolleranza geneticamente determinata. Se ciò è vero, ciò significa che la malattia è caratterizzata da una, questa intolleranza è caratterizzata da un'aumentata frequenza o prevalenza familiare. Per cui oggi si stima mediamente, sa, gli studi non sono tutti uguali perché le condizioni sperimentali degli studi non sono tutte uguali, ma possiamo generalizzare dicendo che il 10% dei familiari di primo grado e quindi anche dei figli dei pazienti celiaci rischiano una celiachia, faranno una celiachia. Ecco, questa percentuale può sembrare alta, ma se si pensa che la prevalenza della celiachia nella popolazione generale è di circa 1 a 100, vuol dire che poi un figlio su 10 risulterà celiaco. Nel corso della nostra trasmissione parleremo di sintomi, parleremo dell'importanza di arrivare ad una diagnosi, parleremo di bambini, parleremo di adulti in cui spesso il quadro è più difficile perché i sintomi sono più subdoli, sfumati, si fa fatica magari a ricollegarli ad una malattia, ad un problema intestinale. 800 24 0024, il professor Corazza e il dottor Pucci rimangono con noi, 349 238 666, se invece preferite lasciarci un messaggio. Una mela al giorno. E ora voltiamo pagina, parliamo di sterilità maschile. Sino a qualche tempo fa questo problema era un tabù, la coppia che non riusciva ad avere figli concentrava tutte le proprie attenzioni sulla donna. Per pensare ad un coinvolgimento dell'uomo si sono dovuti sfatare antichi stereotipi che identificavano la sterilità con la mancanza di virilità. Bene, invece oggi finalmente tutto è più chiaro, gli studi condotti negli ultimi anni tra l'altro hanno chiaramente dimostrato che almeno nel 50% dei casi è l'uomo ad avere una ridotta capacità riproduttiva e nella maggior parte dei casi di infertilità maschile, l'infertilità maschile ha proprio origine da patologie urogenitali che si possono prevenire o curare. Di questo parliamo oggi insieme al professor Vincenzo Mirone, che è tornato a trovarci, presidente della Società Italiana di Urologia. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professore, quindi queste sono buone notizie? Ma direi la buona notizia in assoluto è che l'uomo ha preso coscienza di questa problematica delle circa 300.000 coppie che ogni anno si sposano appunto in Italia. Circa il 20%, cioè 60.000, sono infertili, di queste il 50% hanno responsabilità maschile. L'uomo ha preso coscienza finalmente dopo direi un decennio di questa problematica e quindi, come emerge dal nostro rapporto della campagna nelle 100 più grandi piazze italiane, l'80% dei maschi sa che deve valutare la propria fertilità prima del matrimonio, che vuol dire che c'è una presa di coscienza importante e che quindi oggi dovremmo essere in grado, urologi e andrologi, di poter in qualche maniera prevenire e quindi in qualche modo far sì che quelle malattie, che tra l'altro non vengono più investigate alla visita di leva, con l'abolizione della visita di leva a 18 anni, possano essere in qualche maniera intercettate prima, quindi corrette, e quindi impedire che questo tasso così alto di infertilità maschile sia così presente. Professore, il varicocele è responsabile nel 25% dei casi dell'infertilità maschile. Lei faceva riferimento alla visita di leva. Cosa possiamo suggerire ai genitori di ragazzi, di adolescenti, per in qualche modo tutelare e preservare anche la loro fertilità? Assolutamente, io credo che il messaggio più serio sia quello di portare il proprio figlio, una volta che la pubertà è terminata, quindi 17-18 anni, alla visita specialistica, uroandrologica, in maniera tale che un'eventuale presenza di varicocele oppure un criptorchidismo o in qualsiasi maniera delle problematiche legate all'infertilità possono essere identificate in tempo e poi ovviamente corrette. Parliamo oggi di interventi di chirurgia mininvasiva che non portano a più di una notte di ricovero, quindi stiamo parlando veramente di piccolissimi interventi che, fatti nei tempi giusti, possono permettere a quei soggetti giovani maschi a rischio ovviamente di proteggere la loro fertilità. Professor Mirone, la ringrazio, buon lavoro e buona giornata. Grazie anche a voi. A presto. Buon lavoro. Grazie. Buon lavoro a tutti. Pronto soccorso. E torniamo ad affrontare il tema di oggi, parliamo di celiachia. Il nostro numero verde 800 24 0024, i messaggi 349 238 6666, i nostri ospiti, il professor Corazza, il dottor Adriano Pucci e ci ha raggiunto anche il professor Carlo Catassi, buongiorno. Non è caduta la linea. Professore, intanto subito una telefonata in linea per lei. Giuseppe da Genova. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Io ho mia figlia che ha 21 anni e siamo accorti della sua celiachia da quando aveva un anno e mezzo. Sì. Volevo sapere se il vaccino di cui si parla può essere anche... può andare bene anche per persone che sono già celiachi da diversi anni. Ecco, e se invece per quanto riguarda la pillola, se è un qualche cosa che eventualmente si dovrebbe ingerire ogni volta che uno dovrebbe assumere del glutine. Grazie. Grazie a lei, Giuseppe. Professore. Ma vede, sono informazioni delle quali ancora noi non disponiamo. Sono informazioni delle quali ancora noi non disponiamo. Cioè, per quello che riguarda quell'enzima di cui parlavo che dovrebbe digerire il glutine, la prolilla endopeptidasi, ogni volta che noi ingeriamo il glutine dovremmo far precedere l'ingestione di questo enzima che serve poi a frammentarlo e a renderlo innocuo. Per quello che riguarda invece l'antagonista della zonulina, cioè l'apertura di questi varchi per il glutine, ecco, ci mancano ancora un po' di informazioni che sono tuttora risultate, che sono al vaglio, come dicevo, della FDA e che presto però dovrebbero essere l'oggetto di un lavoro scientifico. Quindi per adesso, secondo me, è ancora presto parlarne. Il professor Catassi ci ha raggiunto. Professore, buongiorno. Buongiorno. buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Professore presso l'Università di Pediatria Politecnica delle Marche di Ancona e co-direttore del Centro della Ricerca sulla Celiachia di Baltimora. Professore, vorrei parlare con lei dei sintomi che sono molto caratteristici nei bambini. Il nostro ascoltatore Giuseppe da Genova ci ha detto: mia figlia è stata diagnosticata la celiachia a 1 anno e mezzo. È vero che nei bambini la diagnosi sembra più semplice perché i sintomi sono più chiari? Quali sono, professore? Sì, è verissimo, tant'è che almeno fino a un recente passato la celiachia era prevalentemente considerata una patologia dell'età pediatrica. Sì. Il quadro caratteristico che era noto ormai da diversi decenni è quello caratterizzato da l'arresto di crescita, dalla diarrea cronica, dalla distensione addominale, diciamo dal bambino che appare complessivamente malnutrito, e tutto questo a seguito dell'introduzione dei primi cereali nell'alimentazione, cioè quel momento che corrisponde con il divezzamento. Il bambino introduce i primi alimenti contenenti frumento, a distanza generalmente di alcuni mesi compaiono in maniera graduale questi sintomi che poi generalmente portano il bambino all'attenzione del medico o dell'ospedale. Chiaramente questi casi sono ancora oggi frequenti, come ha descritto l'ascoltatore. Oggi sappiamo tuttavia che il quadro clinico della celiachia è molto più variabile di quanto si pensasse una volta, e accanto a questi quadri caratteristici ve ne sono molti altri molto assai più sfumati, con manifestazioni più sottili, se vogliamo. Professor Catassi, dal sospetto alla diagnosi, a volte i bambini sono davvero proprio piccoli. Come si procede? Quali sono gli esami che vi permettono di evidenziare questa intolleranza permanente al glutine? Ma sì, guardi, oggi abbiamo veramente una batteria di test diagnostici molto diversificati e molto accurati, quindi non abbiamo problemi in questo senso. Vorrei ad esempio ricordare la elevata attendibilità di alcuni semplicissimi esami che possono essere fatti su un prelievo di sangue, che sono il dosaggio degli anticorpi antitransglutaminasi e gli anticorpi antiendomisio. Ecco, questi test di fronte a un caso sospetto o comunque di un bambino che appartenga a un gruppo a rischio, come può essere il familiare di un celiaco, bene, questi esami possono porci davanti a una situazione di forte sospetto diagnostico. Abbiamo oggi anche test di tipo genetico, anche questi alla portata dei laboratori analitici, utili per la conferma e soprattutto per smentire eventualmente un sospetto di celiachia. Quindi la batteria di test, diciamo così, non invasivi per la diagnosi di celiachia è oggi particolarmente ampia. È altrettanto vero che di fronte a un caso dove il sospetto di diagnosi sia forte, rimane importante un esame che è la biopsia intestinale per dimostrare che effettivamente in quel soggetto la risposta immunitaria anomala ha portato a uno stato di sofferenza della mucosa intestinale, e questo può essere dimostrato facendo appunto una biopsia intestinale che viene fatta oggi sia nel bambino che nell'adulto prevalentemente con l'esame gastroscopico. Ho un messaggio per lei, professore. Sono celiaca e ho un bambino di 2 mesi. Volevo sapere che esami doveva fare mio figlio e quanto prima dello svezzamento. Anche perché si delineano, mi sembra, 2 ipotesi relative allo svezzamento per i figli di bambini celiaci. Una che vorrebbe anticiparlo ai 4 mesi, l'altra invece che suggerisce di posticiparlo all'anno. Quindi esami e quando è il momento giusto per svezzare un bambino? Sì, dunque, intanto diciamo che prima del divezzamento, evidentemente venendo a mancare l'elemento ambientale di responsabile di celiachia, e cioè l'introduzione di glutine, non esiste un'espressione, certo, clinica. Ecco, però è possibile ad esempio fare il test genetico, perché ovviamente quello che è scritto nei geni non si modifica nel tempo, e quindi se c'è o meno una predisposizione allo sviluppo di celiachia, questo si può già vedere, sì. Sì, volendo sì. È un test che è utile soprattutto per escludere il sospetto di celiachia, perché in verità laddove la ricerca dei geni predisponenti sia positiva, questo non porta a una forte sospetto di malattia, perché questi geni sono presenti anche nella popolazione generale non celiaca. Tuttavia è un test che ha una delle informazioni utilità. Le dà. Relativamente invece al discorso dello svezzamento, anticiparlo o posticiparlo? Ma dunque, generalmente le prime pastine vengono tradizionalmente introdotte attorno all'età di 6 mesi. Sì. Vi sono degli studi che suggerirebbero che questa è effettivamente l'età migliore per introdurre il glutine, poiché introdurlo prima, precocemente o dopo i 6-7 mesi di vita sembrerebbe comportare un lieve aumento, diciamo così, del rischio di sviluppo di celiachia. Tuttavia vi è anche un'altra opinione di pensiero, e cioè che ritardare l'introduzione del glutine potrebbe in qualche modo proteggere entro certi limiti dallo sviluppo di celiachia, poiché si risparmia la presentazione del glutine a un sistema immunitario che è ancora immaturo, come accade nel bambino piccolo. Certo. Questa ipotesi è al momento al vaglio della ricerca, con una grande ricerca che l'Associazione Italiana Celiachia ha promosso nel nostro paese e della quale io sono coordinatore. Noi speriamo che nell'ambito di alcuni anni si possa dare una risposta più precisa a questo interrogativo, che pure è importante per tutta la popolazione. Professore, io la ringrazio per essere stato grazie con noi, buona giornata. A lei, grazie. Noi continuiamo a parlare di adulti e tra l'altro, dottor Pucci, voi attraverso il vostro sito, con la vostra associazione, fate continuamente campagne informative, oltre che investire proprio in studi. Dottor Pucci. Sì, infatti la nostra attività è veramente molto molto orientata, no? Come ha detto lei, alla comunicazione e anche a indirizzare tutti coloro che sono diagnosticati a come seguire la dieta e soprattutto anche a come difendere i propri diritti laddove non sono rispettati. Infatti per noi è molto importante rigorosamente la dieta senza glutine, però anche senza paranoie. Vogliamo evitare, come purtroppo anche qualche medico facendo un po' di, secondo me, di terrorismo psicologico, invita ad avere pentole posate diverse. Professore, dottor Pucci sottolineava un aspetto importante, non sono la persona che non può mangiare glutine, non deve mangiare glutine, può fare una vita assolutamente normale, no? Deve fare una vita assolutamente normale, certo. Abbiamo in linea con noi Andrea, ci chiama dalla provincia di Cremona. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno. Ecco, a me è stata diagnosticata un'intolleranza al grano tramite un esame del sangue. Effettivamente, dopo aver escluso il grano dalla mia dieta, non ho avuto più problemi intestinali. Ecco, volevo sapere qual è la causa di questa intolleranza e se può essere legata all'uso di pesticidi o la modificazione genetica, che in particolare riguardano appunto questo cereale. Professor Corazza. Per la verità non si capisce bene dal quanto ha detto il paziente, se l'ascoltatore, se gli è stata diagnosticata un'intolleranza al grano diversa dalla celiachia, quindi lui non ha una malattia celiaca, lui ha un intestino completamente normale. Ci sono dei pazienti in cui gli ausili diagnostici di cui parlava il professor Catassi prima, cioè gli anticorpi e la biopsia, risultano normali, ma questi pazienti giurano e spergiurano di stare male quando introducono frumento o altri cereali. Questo non è impossibile, perché dobbiamo dire che il glutine è una delle componenti, ma non l'esclusiva componente della farina di frumento, per esempio. Esistono altre proteine, le albumine, le globuline, eccetera, che, alle quali l'individuo potrebbe essere intollerante e sensibilizzato, insomma una sorta di allergia alimentare. Ritengo però che si debba fare ogni volta moltissimo sforzo per diagnostico, per differenziare con sicurezza queste forme dalla malattia celiaca e per poter dire quindi al paziente a che cosa va incontro e a che cosa non va incontro, tenendo anche presente che le diete da eliminazione, cioè eliminare il grano, eliminare le patate, eliminare l'uva, sono gravate da un forte effetto placebo. Quindi bisogna fare attenzione e, professor Corazza, io vorrei focalizzare la nostra attenzione sui sintomi subdoli che potrebbero nascondere una intolleranza al glutine. Li abbiamo raccolti in una scheda che vogliamo far ascoltare ai nostri ascoltatori e che poi commentiamo insieme. Ti è stata riscontrata una carenza di ferro? La cosiddetta anemia sideropenica? La statura di tuo figlio è nella media? Hai un genitore celiaco? Hai notato la presenza di papule o vescicole nella zona di gomiti o ginocchia? Hai avuto la prima mestruazione tardi? Hai difficoltà a portare a termine le gravidanze? Sei andata presto in menopausa? Bene, se rientrate in una di queste situazioni, chiamateci anche per sapere, per avere delle indicazioni, delle informazioni, se avete già ricevuto una diagnosi sulla vita quotidiana. Ci sono delle agevolazioni, si può fare molto. Abbiamo in linea con noi il dottor Pucci, pronto ad informarvi. Una domanda per Adriano Pucci, che ha sicuramente il polso della situazione, come ce l'ha naturalmente il professor Corazza. Negli adulti spesso la celiachia viene diagnosticata tardi. Dottor Pucci, quanto tardi e come reagisce poi una persona che improvvisamente scopre il suo problema? Senta, intanto, come può affermare meglio il professor Corazza, l'età in cui la malattia si manifesta può essere variabile. Il ritardo, anche questo, è molto variabile. Noi ancora oggi riscontriamo diagnosi a 60-70 anni, ma molti di questi dopo una vita passata tra mille difficoltà, e quindi ci sono tutti e due i fattori, no? Certo. Il ritardo della manifestazione, ma soprattutto il ritardo della diagnosi. E soprattutto negli adulti noi riscontriamo che ci sono molti aspetti, molto più difficoltà, no? Nella dieta, perché per esempio l'adulto si è abituato per anni a certi gusti che fa fatica poi a dimenticare, e quindi anche psicologicamente parlando a volte c'è più da lavorare sull'adulto che non sul bambino in tenera età. Abbiamo Piera, ci chiama da Varese, buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere al professor Corazza, a mia figlia è stata diagnosticata in età adolescenziale per puro caso a seguito di una piastrinopenia la celiachia. Attualmente lei segue solo il controllo annuale presso l'istituto dove è stato svelato questo. Volevo chiedere quali esami ulteriori a modo di prevenzione si devono fare. Ad esempio, io ho effettuato, a seguito di un consiglio, ho fatto effettuare alla ragazza una mocche di base. Quali altri esami come proprio prevenzione, auspicando appunto che le varie fasi di sperimentazioni nei prossimi anni procedano. Ecco, grazie Piera. Questo, la prevenzione, grazie a lei. Grazie. Professor Corazza. Ma non si può parlare di prevenzione in una paziente che è stata già diagnosticata di celiachia, insomma, oramai questa è una diagnosi stabilita. Noi siamo convinti che un controllo annuale, se non vi sono problemi particolari, sia sufficiente per seguire un paziente con questa forma di intolleranza, ma questo controllo annuale ci deve essere, perché poi la sua aderenza alla dieta è tanto migliore, è di qualità tanto maggiore quanto più il paziente si sente sotto controllo, cioè si sente protetto da una continua osservazione medica. Quali esami io suggerirei a questa paziente? Io suggerirei di fare delle analisi che esplorino in maniera un po' più approfondita il suo sistema immunologico e in particolare l'effettuazione di altri autoanticorpi, perché ritengo che la forma più frequente di piastrinopenia che si può verificare in corso di celiachia sia una piastrinopenia autoimmune, cioè questa paziente ha sviluppato piastrine e ha sviluppato anticorpi contro le proprie piastrine, e allora noi vorremmo sapere se non ci sono circolanti altri anticorpi contro altre sostanze del suo organismo. Quindi farei una più approfondita indagine immunologica, questo appunto per prevenire, o meglio per riconoscere subito se non vi siano altre situazioni di malattie associate immunologiche alle quali bisogna pensare. Liliana ci chiama da Palermo, buongiorno Liliana. Grazie, io già ho sentito queste, appunto, questi consigli del professore. Io purtroppo ho avuto diagnosticata la diagnosi mia figlia adesso 32enne, quando aveva neanche un anno, per esclusione, con una radiografia che è stata appunto, il cui ricordo ancora mi fa male. Breaking news. Il ministro degli esteri Franco Frattini ha confermato pochissimi minuti fa la liberazione dei 19 ostaggi rapiti il 19 settembre scorso nel sud dell'Egitto, fra i quali, lo ricordiamo, ci sono 5 italiani. Frattini ha detto: i nostri connazionali e gli altri ostaggi sono stati liberati, stiamo verificando le loro condizioni di salute. Ne parleremo del GR delle 12. Liliana è ancora in linea con noi, sì. E quindi stavo dicendo appunto questo, che ha ripreso poi, di fatto, questo esame radiologico nuovamente verso gli 11 anni e di nuovo ha rifatto la dieta, sì. La bambina era insomma caduta un po' in condizioni veramente un po' penose, comunque ha ricominciato con la dieta, è diventata una ragazza flora, bellissima. Però la prima mestruazione l'ha avuta a 14 anni, quindi non so se è stata un po' come mi accuso, perché forse è stata un po' colpa mia, insomma. Adesso il mio Liliana punto. Le chiederei di venire alla domanda, esatto, grazie. Infatti, solamente dico, la deposito di ferritina di mia figlia è sempre stato basso, quando ogni anno facciamo degli esami, appunto esami di sangue, quindi vorrei sapere come avviare, anche perché lei una volta ha fatto una flebo, però non la sopporta tanto, non la fa tanto volentieri, non l'ha fatta più, e poi per il calcio, e poi come fa, cosa fare per, appunto, come prevenzione per un'eventuale domani futura gravidanza, se si dovesse sposare. Professore, grazie Liliana. Professor Corazza, Liliana pensa già a una gravidanza per sua figlia. Sua figlia ha attualmente 32 anni, sì. Ed è stata diagnosticata a 32 anni. No, è stata diagnosticata piccola, un anno piccola, e mezzo. Un anno e mezzo, non si era capito bene, sì, questo. Sì, sì, e quindi è stata diagnosticata precocemente. Quindi, seguendole, possiamo sottolineare nuovamente questo concetto. Non si deve mangiare il glutine, ma si può fare tutto, si può seguire una vita assolutamente normale. Assolutamente normale, con precauzioni particolari. Per l'esclusione del glutine dalla dieta. Su questo bisogna avere delle precauzioni molto attente, come diceva il presidente Pucci, ma non particolarmente nevrotizzanti. Ma venendo alle domande, a quanto ha detto la signora, devo dire che non si capisce questo esame radiologico che cosa sia, perché nessun esame radiologico è diagnostico di malattia celiaca. Se sua figlia ha una malattia celiaca, è possibile che abbia dei depositi di ferro abbastanza depleti, abbastanza bassi, però l'anemia da deficit di ferro è frequente anche nella popolazione generale. Sì, non celiaca. E quindi non celiaca, e quindi noi, se la figlia della signora esegue una buona dieta glutinata, non siamo assolutamente sicuri che il deficit di ferritina, cioè la ferritina bassa, dipende dalla celiachia che ha. Può avere un'anemia sideropenica primitiva e non secondaria alla malattia celiaca. Un supplemento di calcio andrebbe fatto solo se la paziente ha una osteoporosi chiara, sì. E qui molte volte la si dà anche per una osteopenia, cioè una forma di osteoporosi molto più lieve. Io questo non lo farei, io farei una terapia specifica in un celiaco solo quando c'è un'osteoporosi evidente. Sì. E poi per quello che riguarda la gravidanza non ci sono particolari accorgimenti da tenere, tranne che continuare una tranquilla, serena ed attenta dieta agglutinante. Allora, la nostra trasmissione si conclude qui. Io ringrazio il professor Corazza per la sua chiarezza. Ringrazio, un ringraziamento particolare ad Adriano Pucci, all'Associazione Italiana Celiachia, di cui vi rimando al sito, che è sempre a fianco dei celiaci per fare accettare in modo sereno, direi, no? Dottor Pucci, veramente sereno, ma rigoroso. Sereno e rigoroso, e soprattutto in presenza di sintomi parlatene con il vostro medico. Grazie ad Adriano Pucci per essere stato con noi, al professor Corazza. Buona giornata a tutte e due. Buongiorno. Grazie, buongiorno. E buona giornata a voi. Io vi aspetto domani, sempre dopo il GR delle 11. Un saluto da Nicoletta Carbone.